La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon pomeriggio, anzi sono le 16, 7 primi, 57, 58, 59, 8 primi in diretta. Vi saluto e vi ringrazio dell'ascolto, Oscar Giannino, la versione di Oscar. Quest'ora che nella programmazione Radio 24, lo sapete, serve a equilibrare poi la trasmissione successiva di Sebastiano Barisoni, lo statalistissimo, keynesianissimo, colbertissimo, dirigistissimo Sebastiano Barisoni, lo dico sorridendo, ma fino a un certo punto. E quindi ogni tanto c'è bisogno anche dell'ora invece di un mercatista impenitente, liberista come me, finché non ci metteranno la riserva indiana. Ma è così, la dialettica è fatta del pluralismo, ma io difendo il mio principio vincitore nella storia. Lui è convinto del contrario, che stia vincendo lo statalismo keynesiano colbertista, però vedremo fino a questo momento. Però anche oggi questa ironica, rispettosissima ma molto ironica, perché veramente a volte troppo keynesiano statalista, antitedesco eccetera eccetera. Però detto tutto questo, per intervenire, chiedervi di intervenire su due aspetti che sono collegati, perché sono entrambi due aspetti della libertà di cui parliamo oggi, per due vicende che hanno avuto degli sviluppi in questi giorni, di cui più volte mi sono occupato negli anni dal mio punto di vista, come di coloro che sono i protagonisti di queste vicende, minoritario ma tenacemente coerente. Perché? Di che cosa parliamo oggi? E quindi, se volete, intervenite 800 24 00 24, telefono, opinioni 349 238 6666. Cominciamo con gli sviluppi in corso della lunga battaglia intrapresa anni fa da alcune famiglie di Torino contro l'aumento dei prezzi che veniva praticato alle mense scolastiche, rivendicando il diritto di poter mandare i figli a scuola con proprie refezioni, colazioni, merendine, panini, chiamateli come volete. Una lotta che ha visto l'amministrazione scolastica negare tenacemente il diritto, perché si sostiene che è una parte integrante dell'offerta formativa. In realtà c'è dietro un problema: chi gestisce gli appalti, naturalmente, e le imprese che offrono questi servizi, comprese quelle aderenti a Confindustria, che infatti hanno sempre protestato, perché io mi occupo in questi termini, in termini di difesa della libertà di queste famiglie di Torino. Siamo arrivati a pronunzia giudiziaria, il diritto è stato riconosciuto, se non che l'amministrazione scolastica continua, non solo a Torino ma insomma in molte parti d'Italia, verso i pochi epigoni di questa battaglia altrettanto risoluti, a dire non se ne parla neanche, voi ci create un problema, un fastidio, il personale aggiuntivo per la garanzia dei vostri figli che non stanno a mensa noi non ce l'abbiamo, c'è un problema di sicurezza della salute e igienico-sanitaria eccetera eccetera. E nel frattempo siamo arrivati a questo, a Torino a chi pratica il diritto riconosciuto da un giudice di mandare i figli con la propria refezione, applicano un costo superiore a quello della refezione. Capite che è il paradosso di questa lunga guerra che è in corso, per dire: come pretendete voi di affermare il vostro diritto alla libertà su cosa mangia vostro figlio? Ecco. Tra l'altro la questione, oltre all'ostia che abbiamo avuto nel tempo sugli sviluppi di questa vicenda, si parla anche di un disegno di legge, vedremo se è vero o meno, che potrebbe intervenire su questa materia dando ragione all'amministrazione scolastica e negando le sentenze dei giudici che hanno affermato il diritto. Prima vicenda. Seconda vicenda, anch'esso uno sviluppo, in questo caso non di prezzo ma giudiziario. La Corte Europea di Giustizia in materia di OGM ha condannato l'Italia e difeso il nostro di pochi che lo difendiamo, Giorgio Fidenato, imprenditore, presidente dell'Associazione Agricoltori Federati della provincia di Pordenone, che da anni è impegnato in una tenace battaglia contro i divieti alle coltivazioni OGM che l'Italia applica da sola, estendendo in maniera iperestensiva il principio di precauzione. La Corte Europea di Giustizia ha detto no. Il Fidenato, che pure penalmente perseguito, ha avuto innumerevoli irruzioni nei suoi campi, devastazioni, abbattimenti delle recinzioni e così via, in nome di coloro che si ritengono animati da una superiore ragione etica a difesa della salute, a difesa contro la multinazionale che ovviamente non farebbero altro che inquinare e uccidere i nostri figli, la Corte Europea di Giustizia interviene e dice: manco per idea, l'Italia non ha la facoltà di vietare fare, secondo le misure che abbiamo visto, che vietavano esattamente quel tipo di semente transgenica di mais che Fidenato ha piantato apposta per determinare il problema e che è autorizzata nel resto d'Europa, cara Italia, il motivo per il quale tu lo vieti e persegui quindi Fidenato è un motivo che non trova fondamento neanche nel principio di precauzione, quindi è puramente discrezionale e in questo caso quindi tu non puoi portare in giudizio Giorgio Fidenato. E approfondiremo anche questa, è bastato citarlo questa mattina per ricevere lettere di ascoltatori e ascoltatrici che dicono: perché parli di cose che non sai, fai parte del complotto delle grandi società multinazionali della Monsanto. No, e sono stufo anche di credere di potermi zittire con questi argomenti. Se l'Italia ha ucciso la propria ricerca in materia di coltivazione transgenica, che era all'avanguardia nel mondo negli ultimi 20 anni, convinta di rappresentare l'angolo del mondo più avanzato nel principio di precauzione, ma non ha l'evidenza scientifica di danni riconducibili a questi sementi e ce li fa poi importare esattamente quelle che in Italia non si possono coltivare, beh, è un paese di ipocriti. Questa è la mia idea. Però di queste vicende parliamo, chiamateci 800 24 0024. Cominciamo però con lo sviluppo a Torino della sovrattassa per gli alunni che pranzano con il panino della mamma, è il titolo dell'articolo dell'edizione di Torino di Repubblica. E quindi cominciamo con noi l'avvocato che sostiene la lotta dei genitori, ormai pluriennale, una cosa omerica, veramente da ridere, che si debba fare tanta battaglia amministrativa e giudiziaria per un elementare diritto di questo tipo, l'avvocato Giorgio Vecchione. Buon pomeriggio e grazie di aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, un saluto a un liberista. Ecco, come nasce questa idea che adesso, riconosciuto, strappato il diritto, che viene comunque contestato, perché basta vedere chi leggesse Il Giorno in Lombardia, trova un articolo oggi relativo a quello che sta avvenendo nei paesi del Cremonese, Quintano e Pieranica, anche qui guerra della mensa, i genitori fai da te contro il Caroletto e l'amministrazione ovviamente comunale scolastica dice: come pretendete voi di sottrarvi alla mensa? Ma com'è che a Torino siete arrivati, avvocato Vecchione, adesso alla richiesta di un pagamento superiore del 50% a quelli che vanno in mensa una volta riconosciuto il diritto di chi i propri figli non ci possono andare? Ma, diciamo che il problema è duplice, nel senso che il pagamento non dovrebbe neanche competere a quelli che fruiscono della mensa comunale, perché formato, l'assistenza educativa è un'obbligazione del corpo docente, quindi quando si parla di cooperative di assistenza durante il tempo mensa e dopo mensa, già questo è sostanzialmente sbagliato, perché sono funzioni che competono esclusivamente al corpo docente. Il fatto che ai bambini, alle famiglie che hanno deciso in maniera libera di sottrarsi dal servizio e gli viene chiesto un sovrapprezzo è ovviamente una cosa assolutamente inaccettabile, ma è doppiamente inaccettabile proprio per il fatto che è assolutamente illegittimo che l'assistenza educativa venga delegata a delle cooperative esterne. Nelle slide del Ministero sul sito del MIUR è categoricamente spiegato che è vietata qualunque forma di partecipazione esterna durante il tempo mensa e dopo mensa, che sono competenze degli insegnanti. Eppure? Eppure avviene. Ma è fantastico questo dettaglio. Eppure avviene. Adesso noi, le mamme che assistono, che gestiscono questo profilo Facebook, in tutti i modi dicono che tutti i pagamenti nella scuola, soprattutto in quelle dell'istruzione inferiore, quindi all'elementare, soprattutto nel tempo pieno, dove proprio il tempo scuola è composto da 3 segmenti educativi e quello della mensa e dopo mensa è un segmento educativo affidato agli insegnanti, continuano a scrivere: rifiutatevi di pagare. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha detto che si tratta di contributi volontari, ma l'hanno scritto in tutti i modi. Adesso chi vuole paga, chi non vuole non paga, però le indicazioni le abbiamo date. Poi se molte famiglie hanno bisogno di un amministratore di sostegno per capire certe cose, diventa difficile. Il costo di assistenza è già pagato con lo stipendio degli insegnanti e pagato dai genitori con il pagamento delle tasse. Ma quindi la natura del provvedimento col quale si chiede di pagare 1,50 euro per assicurare l'assistenza durante la pausa pranzo per chi manda i figli muniti di propri panini è illegittima, da considerare illegittima? movimenti estemporanei di un dirigente piuttosto che di un altro. Questo non avviene in tutte le scuole, esatto. soltanto alcune, e sono atti totalmente illegittimi. Nella loro illegittimità sono anche inefficaci, perché nel momento in cui il genitore dice no, io non pago, non è che hanno strumenti giudiziali per pretendere questo pagamento e procedere. Allora, nel frattempo è in Parlamento all'esame un disegno di legge che si occupa non di questa specifica questione, però è un disegno di legge che abbraccia la disciplina di tutta la ristorazione collettiva, quindi anche quella ospedaliera, eccetera, eccetera, e ovviamente anche quindi quella scolastica. E opinioni contrapposte, però noi sentiamo la senatrice del PD, che è la relatrice del disegno di legge, già si è iniziato a pensare, ma non è che questo disegno di legge sarà una risposta normativa, sempre nel caso in cui venisse approvato prima della fine della legislatura, per tornare a dare un scudo di legge all'amministrazione scolastica, che a dire la verità dovunque in Italia tenta di resistere tenacemente all'idea del diritto affermato da Giulio Ciattorino delle famiglie di sottrarsi alla mensa e mandare i figli con la propria refezione. Allora, è con noi per chiarirci questo punto la relatrice del disegno di legge mensa, la senatrice del PD, Angelica Saggese. Buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito. Ha capito, grazie. La mia domanda è chiara, quindi la sua risposta, visto che il testo lo conosce bene anche nelle interpretazioni possibili, lei come risponde? Beh, il disegno di legge è un tentativo di mettere ordine in questa materia, perché riguarda la ristorazione scolastica, lei ha detto bene, quella ospedaliera, in genere il consumo del pasto fuori casa, ma l'attenzione e il dibattito è concentrato essenzialmente sulle mense scolastiche, anche alla luce di ciò che ha raccontato prima, l'ho ascoltata, la libertà di scelta o meno per il genitore, l'aumento dei prezzi che sta verificandosi a Torino. L'idea del disegno di legge è quella di affermare un principio sostanziale, ossia che c'è una necessità di un'educazione alimentare, e questo penso sia un dato condiviso con i genitori, e questa necessità di educazione alimentare passa anche attraverso la mensa scolastica, quindi diventa un momento educativo quello della mensa scolastica, da qui la necessità di disciplinarlo. Poi ci rendiamo perfettamente conto che spesso il livello qualitativo, e da qui la scelta in alcuni casi dei genitori di ricorrere al panino o l'altra pietanza, qualsiasi altro tipo di pietanza portata da casa, è legato al livello qualitativo dell'offerta delle mense, su cui mi auguro si possa fare una battaglia comune. No, ma aspetta, al di là del, e questo è un'altra materia e sulla quale non possiamo, chiunque sia di buon senso, voglio sperare che essere d'accordo, fare la battaglia per verifiche e innalzamenti delle qualità dell'offerta. E anche, io mi permetto di dire, avendo studiato negli anni con grande attenzione le concessioni che vengono date, cioè i capitolati delle gare e degli appalti, perché in molti comuni ci sono, diciamo così, prove evidenti di connivenza e collusioni, ma questo capita spesso, e senza voler generalizzare, ma spesso capita nelle gare pubbliche. Ma detto tutto questo, al netto di questo, il punto di fondo per quelli che ci ascoltano e seguono da qualche anno su Radio 24 la questione sollevata dalle famiglie a Torino, poi non solo a Torino, ma comunque poi che è sfociata in una sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha riconosciuto la base di piena legittimità, e quindi il fatto che l'ordinamento italiano debba ottemperare il riconoscimento del diritto delle famiglie del pranzo autoprodotto dalle famiglie rispetto a quello offerto dalla mensa. Ecco, la domanda che torno a farle è: l'indicazione che lei ci ha dato, cioè il disegno di legge identifica nella mensa scolastica un momento qualificante ma del tutto integrante dell'offerta formativa, perché l'educazione alimentare è un pezzo fondamentale proprio in ragione della giovane età, e che riguarda i bimbi e le bimbe, ma riguarda anche le famiglie, per così dire. Ma questo è il presupposto per tornare a ribadire che non ci si può sottrarre alla mensa, o meno, secondo lei, senatrice? No, non è il presupposto. Io vorrei che si arrivasse ad un livello in cui tutti scelgono di andare a mensa, perché il livello qualitativo della mensa è tale che consente a tutti, e perciò ho fatto, mi sono agganciata prima a livello qualitativo la necessità di intervenire sui bandi e sui capitolati e di standardizzare le procedure, perché l'auspicio è che tutti possano liberamente scegliere di usufruire del servizio mensa. Poi è chiaro che diventa complicato per la scuola, e da qui vedo quello che accade al Comune di Torino, illegittimo sicuramente l'aumento della quota per chi consuma, porta il pasto da casa, ma chiaramente si crea un problema di gestione delle differenze tra i bambini che sono a mensa e i bambini che consumano il pasto da casa. Io lo capisco, senatrice, però la libertà che a noi è così cara è proprio una questione di come si gestiscono le differenze, perché altrimenti la libertà significa siete tutti liberi di aderire e non potete sottrarvi, e la libertà ma non è questa. Ma adesso però è già libero il servizio, e adesso non c'è un obbligo nel servizio mensa, è già attualmente un servizio a domanda individuale. Senatrice, quindi... certo che a domanda individuale, però ripeto, noi abbiamo documentato negli anni, le famiglie di Torino si sono dovute organizzare, pagarsi l'assistenza legale, vedersi ricorsi più volte rigettati prima di arrivare a una sentenza, la Corte d'Appello, che riconosceva la cosa. Cioè, non è stata una passeggiata di salute. Io non condivido questa impostazione. Peraltro ci sono alcuni giudici che hanno avuto posizioni diverse, è vero, di Napoli per esempio, verissimo. Quindi c'è anche una contrapposizione, perché secondo me c'è la necessità di un principio che deve prevalere, ossia il tempo mensa come tempo formativo, allora, per il bambino. E mi ha e risposto. Questa è la mia opinione, è un'opinione mia, io no, la vedo così, però, la libertà non viene intaccata da questo punto di vista, perché altrimenti c'è il rischio con i bimbi che portano il pasto da casa di dover un problema, lei l'ha detto bene prima, di sicurezza alimentare, di difficoltà degli altri bambini, quindi bisognerebbe proprio su questo tenere i bimbi che portano il pranzo da casa in un locale diverso rispetto a quello dove sono gli altri bimbi che invece usufruiscono del servizio mensa, perché ci possono essere le contaminazioni. Va bene, la libertà ha necessità di essere incrociata con quella degli altri, sì, sì, la libertà per di ognuno con quella degli altri. Cioè, e qua è il difficile compito di mediazione, esatto, che bisogna provare a risolvere. Va bene, allora intanto grazie di averci risposto con grande chiarezza, cioè lei dice parte integrante, quindi non... però sentiamo, c'è una telefonata, Luigi da Mantova, su questo. Luigi? Sì, buonasera. Buonasera. Grazie. Allora, è un problema collegato, non riguarda direttamente la mensa ma la sorveglianza. Adesso sentivo la senatrice che diceva bisogna tenere i bimbi in un luogo diverso. Mi sembra che siamo una nazione che complica troppo la vita ai genitori. Il mio problema, il mio e di qualche altro genitore, abbiamo i figli che escono da scuola 7 minuti, 8 minuti prima, una cosa del genere, che passi il pullman dell'ACO, un'azienda provinciale di Mantova. Sì. Okay? La dirigente non vuole assumersi la responsabilità della sorveglianza di quegli 8 minuti lì, perché poi devono attraversare la strada, quindi esige che i bambini salgano sul pulmino comunale che fa lo stesso servizio, costa qualcosina di meno, però non ci stanno tutti, quindi per 5, tra cui mia figlia, non c'è posto, e quindi dobbiamo organizzarci 5 genitori per portare i figli avanti e indietro da scuola, un tragitto di 5 chilometri. Non c'è verso di trovare una soluzione. Non c'è verso di trovare una soluzione. Io non ce l'ho con la dirigente in quanto, cioè, persona, in quanto istituzione. No, ho capito. Ci segnala che c'è un problema sulla sorveglianza, in particolare su questi minuti di diverso passaggio dei mezzi. Non è esattamente, però, ripeto, il tema del sovraccosto chiesto come maggior pagamento ai genitori torinesi dovuto alla sorveglianza in locale separato, e la risposta dell'avvocato Vecchione: no, il nostro ordinamento non si può affidare a terzi, deve essere degli insegnanti la funzione, quindi non potete chiederci soldi in più per questo. Monica da Milano, Monica, prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie innanzitutto. Io devo fare una premessa, ho fatto parte per 8 anni di un comitato genitore che si batte perché in questo paese nuovamente la politica non deleghi all'individuo, mi spiego meglio. Ci vuole, la legge c'è, è chiara, dice il momento della refezione scolastica è un momento che fa parte dell'orario scolastico, punto. E poi venga derogato alle regioni, ai vari istituti, eccetera, a regolarlo, ma questo è. La sorveglianza deve essere data, punto, da personale, dalle maestre, alle elementari, da altro personale, sì, in altre occasioni. Noi ci battiamo perché non deve accadere questo. Ma mi scusi, le faccio una domanda. Infatti, finisco questa cosa. Attualmente è impensabile che un bambino porti il suo panino da casa e lo mangi in un altro locale. Tutti i bambini mangiano alla mensa quello che viene preparato dalla mensa. Chi non vuole mangiare alla mensa sta a casa. Questo deve avvenire e questa è la nostra esperienza e noi questo abbiamo ottenuto. Che lo abbiate ottenuto perché l'amministrazione scolastica è su questa linea non mi sorprende. Quello che mi sorprende in questa linea egualitaria che innalza l'argomento della tutela della salute è immaginare che quello che avviene poi la sera invece che a pranzo a casa sia una specie di attentato di massa alla salute dei figli attraverso ciò che le madri e i padri gli danno, perché è evidente un rischio di contaminazione. Comunque, detto tutto questo, io la ringrazio della chiarezza, perché so che noi siamo minoranza a pensarla così, siamo minoranza. A me secca passare per minoranza contaminatrice, però, perché è l'argomento da sempre che evoca pessime cose nella storia, pessime, proprio pessime, pessime, evoca gli untori, evoca la pretesa degli individui di essere diversi. Ecco, questo a me un po' secca. Lei che dice, avvocato Vecchione? Ma sono abbastanza basito da questa posizione intransigente di questa no, ma però ce ne sono tanti, quindi non posso comprendere. Innanzitutto, allora, per quanto riguarda l'intervento della senatrice, l'auspicio dei genitori è ovviamente quello che ci sia una mensa economicamente sostenibile, qualitativamente apprezzabile, che spinga tutte le famiglie a tornare a quel servizio. È evidente, stiamo sempre lottando anche per quello. Mi stupisce però il fatto che ci sia una negazione del principio per il quale questo disegno di legge vorrebbe negare questa libertà di scelta, perché ad agosto... No, aspetti però, a me tocca tutelare la senatrice Saggese. La senatrice Saggese ci ha detto il disegno di legge prevede questo, poi ha detto la mia opinione è che fa parte integrante dell'offerta formativa e quindi ha aggiunto come sua opinione, rispettiamo precisamente letteralmente quello che ha detto, capisco quindi l'amministrazione scolastica che dice devono stare in un ambiente separato e c'è anche un problema quindi di sorveglianza da parte del centro. Questo è quello che ha detto, non ha detto nella legge c'è scritto che, ha detto la legge dice questo e la mia opinione è. Infatti, perché proprio il disegno di legge tendenzialmente non parla di obbligatorietà. L'emendamento all'articolo 5 che è stato inserito in un disegno di legge che tendenzialmente non riguarda la vita scolastica, ma riguarda proprio la questione degli appalti, ad ampio raggio, inserisce una formula dove i servizi di ristorazione sono erogati dalle istituzioni scolastiche. Allora, questo già crea anche delle difficoltà interpretative. Erogati dalle istituzioni scolastiche, che cosa vuol dire? Che non ci sono più gli appalti dei comuni? Prima domanda. Quindi ci pensa direttamente il Ministero? E poi, se fanno parte dell'offerta formativa ed educativa, vuol dire che nell'ambito del principio generale della gratuità dell'istruzione e dell'obbligo sono gratuite? Questi sono i quesiti fondamentali. Quando dicevo che nel dibattito di luglio-agosto si diceva un qualche cosa di diverso che di quello che la senatrice Saggese giustamente ha detto, cioè la norma non sembra obbligare. Comunque, io dico solo che la questione mi sembra più che mai aperta e che spacchi l'opinione pubblica. Io la farei leggere all'avvocato Vecchione e anche alla senatrice Saggese e gli sms che arrivano qua. C'è chi dice, io mando i miei figli alla scuola svizzera, non c'è nessun problema particolare, ognuno può accettare un regime diverso e mangiano insieme. Mi sembra posso dire un principio elementare. C'è chi mi insulta dicendo che sto dando voce a grillini perché sostengo la loro posizione attuale. Beh, non stiamo parlando di vax, no vax, non stiamo parlando di un comitato di genitori a Torino che si è dato a fare, di una corte d'appello che ha riconosciuto il loro diritto. Io, siccome sono libertario, ci tengo al fatto che lo Stato non mi dica come deve mangiare se voglio sottrarmi a questo, e altrimenti mi dica sta fuori dall'edificio tuo figlio. Ecco, questa è la base. Poi, se voi pensiate che ci siano accordi elettorali, curatevi, cari ascoltatori, state messi male, proprio messi molto male in questo paese intossicato dal credere che ci siano tutti i servi di qualcun altro. Ci sono tanti che dicono, non ho capito perché fa parte di un'offerta formativa. L'offerta formativa sulla salute è rendere noto e chiaro dai bambini e alle famiglie più grandi quali sono i principi alla base di un corretto regime alimentare. Non è che me lo devono praticare, altrimenti sono un ignorante. Questa mi sembra un'altra osservazione di buon senso che ci manda Giovanni, ma molti altri dicono non rompete le legune, non rompete i coglioni con i vostri diritti delle minoranze, tutti in fila a mangiare insieme. E questo ci dice quanto in questo paese negli ultimi anni si è di nuovo allargata l'idea, a destra come a sinistra, di voglia di un regime forte, lo Stato che vi fa marciare, che vi dice cosa fare, a cui voi chiedete naturalmente di andare in pensione prima e più soldi, perché questa poi è la base degli statalisti keynesiani, questa qua. E in tanti di voi nella crisi, giustamente, purtroppo, dolorosamente colpiti, hanno finito per tornare a credere in questo, nello Stato papà, come se non avesse prodotto disastri bastevoli nella storia. Ma no! Voi credete che lo Stato papà diventerà buono perché vi deve dare di più adesso, maledizione. Però questa è la mia opinione minoritaria. Viva, viva, viva, per quello che mi riguarda, Giorgio Vecchione, le famiglie, Torino, in tutta Italia, che si danno da fare per elementare diritto senza essere spacciati come avvelenatori dall'amministrazione scolastica dei propri figli. E chiudiamola qui per il momento, perché la battaglia sarà ancora lunga, e andiamo alla sentenza della Corte Europea di Giustizia sull'antiscientismo italiano della battaglia della posizione anti-OGM, ma prima la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... La versione di Oscar. Ed eccoci tornati in diretta qui dalla ridotta libertaria liberista, che a volte di voi suscita naturalmente perplessità, e va bene, prendo atto, però intanto finché ci sono in questa ridotta resto, sto autoironizzando, su ragazzi. Comunque, dopo la vicenda del diritto affermato in giurisprudenza, anche se contestato da altri giudici, del fatto, pensate come siamo tornati indietro, bisogna battersi in giudizio perché i propri figli possano sottrarsi alla mensa collettiva con cibo da casa, e lo Stato ci dice che li contaminiamo gli altri. Mi fate impazzire. E andiamo a un'altra questione. Anche qui lo Stato pretende, e la politica maggioritaria è trasversalmente destra, centro e sinistra unita, da anni sostengono questa posizione antiscientifica. Antiscientifica, sono quattro volte, anche se irrita molti di voi in ascolto, dell'Italia sugli OGM, che ha così esteso la cosiddetta politica della precauzione da adottarla senza alcun fondamento, con una serie di divieti, di coltivazioni, di ricerca addirittura, di ricerca. Abbiamo distrutto tutta la ricerca italiana sugli OGM, che era l'avanguardia mondiale, mentre il resto del mondo naturalmente si muove col principio di precauzione in materia di sicurezza alimentare e di sanità pubblica solo quando ci sono evidenze, che l'Italia ha deciso di non porre più alla base dei suoi divieti. E allora, di fronte a uno sfidante dal basso di questa totale contraddizione, e che si è beccato danni privati, personali, insulti e naturalmente procedimenti penali, cioè Giorgio Fidenato, ecco che la Corte Europea gli dà ragione e dice appunto che l'Italia nei suoi stop agli OGM li adotta senza evidente prove che possano dimostrare accertati rischi di salute. Che volete farci? Pensate che la Corte Europea di Giustizia sia l'espressione di un indegna complotto internazionale pagato dalla Monsanto? Molti di voi lo so che pensano questo. Però io vi invito a riflettere sul fatto che forse c'è qualcosa che non torna nella posizione italiana isolata nel mondo, più che invece in quella del resto del mondo. Però io metto lì la questione e sentiamo ancora due rapidi interventi degli ascoltatori sulla questione della scuola, e poi andiamo con Giorgio Fidenato a sentire come ha accolto questa sentenza della Corte Europea. Cominciamo però con Riccardo da Bolzano. Riccardo, che dice? Riccardo, c'è? Pronto? Eccoci, sì, pronto. Riccardo, dici. Sì, no, niente, io intervenivo sull'argomento precedente. Sì, sì, cioè sì, sì, sì, ma l'ho avvisato i nostri ascoltatori che eravate ancora lì in ascolto, per rispetto del fatto che avete aspettato, vi mandiamo in onda. Ci dica la sua opinione su il diritto o meno delle famiglie di mandare i figli col proprio pasto. No, io sono rimasto allibito dall'intervento della signora che è intervenuta quasi verso la fine, sì, diciamo così, dell'argomento, che diceva appunto perentoriamente che chi non può mangiare in mensa che se ne stia a casa. Ma come si permette di certe cose? Mio figlio è uguale al suo, quindi deve mangiare dove mangia il suo. E se mio figlio lo manda a scuola con un panino... No, glielo spiego, la base di questo argomento è che è un argomento però, attenzione, che trova l'universale consenso da parte del sistema amministrativo della scuola italiana, e che siccome suo figlio non deve contaminare con il suo cibo, io uso questo verbo ridendo, quello strasicuro invece offerto dal servizio di mensa, e deve andare in un altro, a quel punto, salone, deve essere isolato fisicamente, non so se le è chiaro, beh, questo crea inevitabili problemi di sorveglianza, che la scuola a quel punto non può far esercitare a personale aggiuntivo che non ha. A Torino dicono, bene, allora vi facciamo pagare di più, ma anche quello è illegittimo, non si può fare. Questa è la base della segregazione fisica che viene invocata e richiesta per chi vuole far mangiare i propri figli, pensate un pochino, rifiutando che lo si debba fare nella maniera collettiva sovietica di Stato. Questo, Riccardo, stacci, perché questo è l'argomento, ed è un argomento, ripeto, che trova il consenso di illuminatissimi, autorevolissimi consulenti ed esponenti di primo piano della pubblica amministrazione e della politica del nostro paese. Mario da Udine, come la pensa Mario? Sì, buonasera. I miei figli vanno a scuola coi panini, non c'è nessun problema. Ecco, quindi oltretutto, esistono isole di buonsenso in Italia, insomma. Ecco. Ma oltretutto, c'è una contaminazione di qualcosa, contaminiamo 200 bambini. Il mio, se è un problema, è un problema mio, non 200 bambini. Vabbè, grazie Mario. Andiamo a Giorgio Fidanato su quest'altra vicenda pluriennale in cui lui coraggiosamente si è esposto. Io dico coraggiosamente perché lo ha fatto pubblicamente in maniera tale da esporsi ai morsi dell'ordinamento italiano. Giorgio Fidanato, grazie di averlo fatto, per chi la pensa come noi. Io direi anche grazie per l'Italia, ma sorpreso dalla sentenza della Corte Europea? Buonasera intanto, grazie Giannino e grazie agli ascoltatori per questo invito. Eravamo moderatamente ottimisti perché il 9 di febbraio di quest'anno abbiamo partecipato alla discussione nella Corte di Giustizia Europea e avevamo visto una Corte tutt'altro disposta rispetto alle corti italiane, insomma, e quindi già dalla discussione si era capito qual è, dalle domande che faceva il Presidente alla Commissione, allo Stato membro. Poi le conclusioni dell'Avvocato Generale del 30 di marzo ci facevano ben sperare che la sentenza fosse questa, che in pratica accogliesse le nostre posizioni che inutilmente abbiamo gridato e abbiamo cercato di far capire le procure, i giudici della Cassazione, che però questi, io non so, inspiegabilmente non hanno seguito assolutamente. Io quello che posso dire alla magistratura è la cosa più buona che posso dire, è che non conoscono il diritto europeo, insomma, ecco, perché veramente è impossibile. Questo è il secondo caso in cui vengo coinvolto, in cui vengo assolto. Circa 40 giudici tra procuratori, giudici locali, Cassazione, hanno detto una cosa che viene completamente ribaltata dalla Corte di Giustizia Europea. Non so che pensare. Allora, io le faccio la domanda, lei la risposta me la dà dopo che abbiamo la breve introduzione di servizio per il traffico. La stragrande maggioranza di chi ci sente parlare, ancora una volta, pensa che siamo al servizio delle multinazionali e pensa che i giudici italiani non lo sono e che quelli europei invece lo sono. Allora, Fidanato, riepiloghiamo almeno 2 o 3 dei maggiori punti che dovrebbero essere noti se solo qualcuno ci ascoltasse. Per cui non c'è evidenza di danno a, di per esempio, del mais che lei, dei semi di mais che lei ha utilizzato a scopo di sollevare il problema e per il quale la Corte Europea dice l'Italia non li può proibire. Ecco, non c'è l'evidenza del danno. A, B, contraddizione totale nel mentre l'Italia prende questa posizione, poi tiene gli occhi chiusi sul fatto che importiamo pacchi alti così di tonnellate di roba che viene fatta così o come ovvio. Ecco, vogliamo ricapitolarne almeno alcuni di questi argomenti per tentare di convincere la gente che non siamo dei pagati servitori della Monsanto. Prima però il traffico. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati. Allora, Giorgio Fidanato, Corte Europea di Giustizia Europea, le dà ragione, l'Italia ha torto, però vogliamo ricordare i motivi per i quali lei da anni si è sobbarcato all'idea di fare da testimone gandiano pubblico di violazioni di norme che non hanno fondatezza. Invece, quali sono questi argomenti che non sono certo il fatto che lei è un servo della Monsanto, bensì? Diciamo che l'unico argomento che è rimasto agli anti-OGM, perché non ci sono proprio neanche studi degli anti-OGM sui problemi rilevati alla salute degli animali e delle persone, sono questi paventati per pericoli per la biodiversità, per le lepidotteri cosiddetti non target, cioè delle farfalle locali, che secondo questi studi blasonati potrebbero essere inficiati dal polline OGM che le piante coltivate potrebbero dare. Ecco, le uniche cose che ormai si combatte è su questa cosa. Poi la discussione che avviene fra i pro e i contro è che sulle distanze che bisogna mantenere fra la coltivazione per non influire, ma è sempre, potrebbe essere, pare che, cosa che la Corte di Giustizia ha condannato, nel senso che il diritto europeo è molto chiaro, il principio di precauzione, scusi la parola volgare, non si può utilizzare ad minchiam, no? Nel senso che la Corte di Giustizia ha detto chiaramente, siccome gli OGM, soprattutto per quanto riguarda gli OGM, siccome gli OGM per essere commercializzati devono subire una tale serie di studi, di prove che non siano dannosi, eccetera, eccetera, e che per poter invocare il principio di precauzione è stato messo a una sticella molto più alta, nel senso che essendo già stati provati prima per essere commercializzati, non c'è alimento più studiato di OGM al mondo, devi dimostrarmi che c'è un effettivo pericolo. Invece l'Italia, sulla base del mi pare che, sembra che, mi ha vietato, ha fatto questo decreto interministeriale del 2013 per poter vietare, ma aveva già detto, c'era già il regolamento che diceva che doveva essere grave, manifesto il pericolo, e aveva già detto che non si poteva utilizzare il principio di precauzione, ha ribadito questa cosa qua. Io vorrei che fosse chiaro il cuore, il fondamento della pronuncia della Corte di Giustizia Europea a chi ci ascolta. Lo ripeto perché Giusto Fidenato ve lo ha appena detto, ed è relativo esattamente alla sicurezza alimentare, alla tutela di tutto ciò che c'è di buono nella natura e che non si determinino per la coltivazione e il consumo e l'alimentazione con, in questo caso stavamo parlando di un semente transgenica, delle conseguenze rischiose. Ecco, la Corte di Lussemburgo dice guardate che vale per gli OGM ciò che non vale per gli alimenti OGM, cioè gli OGM hanno una cornice obbligatoria di sicurezza fatta di ispezioni, ricerche, verifiche di laboratorio, eccetera, eccetera, a cui gli altri alimenti non sono sottoposti. Non so se è chiaro questo principio. Quindi, qual è la base scientifica dell'adozione di un principio di precauzione che non è fondato su base scientifica? Questo ci chiede la Corte Europea di Giustizia. E mi pare che l'interrogativo che porta il giudice a dire quindi il tuo divieto è ciò che ne consegue, quindi la perseguibilità di Fidenato, sono infondati, a me sembra un ragionamento molto limpido. Che cos'è, cari ascoltatori, che non vi convince di questa sentenza europea? Dove vedete il fumo del fatto che sia inficiata dal desiderio di produrre in Italia chissà quali danni? Ecco, cioè, complottismo? Però i complottisti siete voi, in questo caso, che ci imponete in Italia di aver smantellato la ricerca, ci impedite la coltivazione, tra il fatto che poi non sapete cosa dire di fronte al fatto che ciò che importiamo viene da ciò che qui non si può ricercare, produrre e utilizzare. Che pensa Fidenato? Questa sentenza è una svolta o è solo l'ennesima battaglia di un capitolo che resterà aperto? Perché io ho proprio l'idea che il Ministero dell'Ambiente, il governo, Galletti, ma destra e sinistra non ci pensino proprio a dare ragione alla Corte Europea. Lei che pensa? Ma allora, innanzitutto adesso è cambiato il quadro normativo, perché come al solito, quando lo Stato si vede perdente nelle aree di giustizia, cambia punto di riferimento. Nel 2010, che sono stato sotto processo poi assolto, il punto di riferimento, il quadro di riferimento normativo era un decreto legislativo del 2001 che che poi è stato dichiarato illegittimo dal punto di vista europeo. Quando venne fuori una sentenza nel 2012 che diceva che questo decreto non era valido, quindi la diga stava per franare, hanno costruito il decreto ministeriale 2013. Quando hanno visto che questa nuova diga stava per franare, hanno adesso interessato il Parlamento europeo per fare questa nuova direttiva, che le do la notizia adesso, noi abbiamo impugnato, non siano tanto sicuri il Ministero dell'Ambiente, le autorità regionali, perché mi hanno molto deriso, ci hanno molto deriso dicendo tanto è una vittoria di Pirro perché tanto il quadro legislativo è cambiato, noi furbetti abbiamo fatto un'altra legge che ti vieta e quindi te l'abbiamo messo in quel posto di nuovo, no? Non siano molto sicuri. La nuova direttiva è già stata impugnata davanti alla Corte di Giustizia Europea e qualora non superasse il filtro di ricevibilità, perché il diritto europeo è un po' diverso rispetto a quello italiano, qualora non superasse il diritto di ammissibilità, il prossimo anno si semina di nuovo per tornare davanti al giudice penale, per chiedere al giudice penale una questione, che ponga una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea perché dichiari se questa direttiva che a me impedisce agricoltore italiano mentre l'agricoltore spagnolo lo può seminare è conforme ai trattati. Va bene, perché... e io posso dire a Fidenato privatamente tutto quello che serve per dare sostegno lo farò per questa nuova causa, perché queste cose costano, sapete cari ascoltatori. Naturalmente vedo che molti di voi deridono e ci considerano dei matti minoritari. Benissimo, e allora tra pochissimo con Sebastiano Barisoni arriva il programma naturalmente principe, gli statalisti keynesiani, dirigisti col principio di precauzione di Stato e il prepensionamento e il fatto che le imprese italiane non devono essere comprate dagli stranieri. Lo dico sorridendo, ma io come minoranza la penso diversamente. Appuntamento con me e Luca Trese domani a 24 mattina alle 8:15 e naturalmente domani pomeriggio come oggi alle 16:00.